cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie non saranno concluse. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. A 16 anni stavo messo male, vedevo il sole splendere dalla corsia di un ospedale. Uscendo, toccai il fondo, continuai scavando, ero ad osbando, tiravo a campare fumando. Non scorderò mai quel periodo in cui non c'eri, quando l'ultimo atto di fatto era il primo dei miei pensieri. Giorni interi passando tra incubi e deliri, cercando la verità sul fondo di troppi bicchieri. Ricordo con precisione l'istante, il primo contatto e la promessa che feci che ancora rispetto. Sionisti, ricorda questo, esisto solo perché esisti. Un legame profondo più dell'oceano, il suono che mi accompagna oltre la terra di nessuno. Insieme camminiamo nel buio fino alla fine, perché è tempo che il mio viaggio arrivi a destinazione. So bene che il mio debito è immenso, lacrime spese cercando un senso, cose preziose. Nel buio tu cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie non saranno concluse. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. Nel buio tu cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie non saranno concluse. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. Sicuramente nessuno si è accorto in un pezzo hip hop in quattro quarti che ci sono stati dei problemi tecnici, ma oggi, se posso dire, chiunque anche, no, non lo voglio dire, si è messo contro a questa puntata in diretta di 100 Celle Avengers, ma noi non demordiamo, ed è quindi con questa atmosfera che sale piano piano che io annuncio che anche quest'anno ci sarà il torneo Tre Maghi. Ci sarà anche quest'anno il saggio di musica, incredibile, l'avevamo annunciato, ma adesso lo riconfermiamo, abbiamo fatto assemblee, riunioni, brainstorming, è confermato. Giovedì 1 luglio abbiamo una saraccata di canzoni. Sul super palco? Sul super palco del Forte Prenestino, l'unico che ci consente di esprimerci in sicurezza e distanza assolutamente e vivercelo quindi come un finto primo maggio, ma tanto con molta più caghetta. Ah, sì, non ho capito, sì. Ma vi piacciono sta storia delle distanze? Vi piace proprio? No, però sai, però la scusa appunto è bene dirlo, ci ha portato poi a calpestare questo grande palco, sul quale non è negato l'accesso a nessuna delle categorie praticamente concepibili nella scuola di musica, sia quelle di cui parliamo sempre, quindi i solisti, sia quelli della musica d'insieme, sia questi diciamo non so, figli della burocrazia, come li posso, cioè categorie di mezzo, ecco, i mezzo sangue, per rimanere in tema. Ciao, sono la principessa mezzo sangue. Ecco. Ne abbiamo una qui. Ne abbiamo un paio. Sì. Purtroppo la redazione di 100 Celle Avengers è popolata anche di costoro, i quali appunto vestono diversi ruoli all'interno del palinsesto del saggio, nel quale appunto non viene negato a nessuno l'accesso, a nessuno che ne faccia richiesta. Ecco, se Silente si faceva un po' i cazzi, non ci ritrovavamo con questi 45 pezzi che probabilmente avremo al saggio, preparavamo, perché sarà una cosa tipo La Traviata, quelle cose in 2-3 atti. E è bene che la musica salga in questo momento. 2-3 atti. Perché poi i saggi, si sa, insomma, possono andare in vari modi e noi lo abbiamo analizzato soprattutto grazie alla nostra memoria storica che non avevamo presentato adesso. Sì. esattamente non ti avevamo presentato. Sì. E adesso lo facciamo, cara Alexa commercialoide, che navighi nel mio hard disk e trovi robe legate un pochino a cosa? 100 celle a Marcord. Esatto, i ricordi dei nostri saggi passati, neanche troppo passati. E a questo punto io non lo so, voi siete d'accordo nell'andare ad esplorare? Chiedo, certo, alla mia sinistra, alla mia destra. Ma esplorare cosa? Non ho capito. Io ho paura. Il nostro passato, cioè i saggi fondamentalmente. Ah, figure di merda che abbiamo fatto l'anno scorsi, va bene. Che sarà mai? Grazie. Tanto possiamo solo migliorare, giusto maestro? Fondamentalmente può succedere che uno si faccia prendere dall'entusiasmo e i saggi vanno anche così. Ecco, questa registrazione è un po' come le liste della P2, dove poi si scoprì che c'erano praticamente tutti, diciamo, i quadri dirigenziali della società a quel tempo. Ecco, anche in questo breve estratto che avete sentito sono coinvolti circa i 4/5 della redazione di 100 celle Avengers, compreso l'insospettabile Silly. I 5/6 in realtà. Mi sembra Silly ricoprisse il ruolo di Victoria, no, di Melanie. Mel C, chiedo non scusa. Non ero io, era il mio alter ego. Sì. Era Mel Silly. Era Mel Silly. Comunque è stato un bel momento e... con annessa coreografia. Esatto. Allora, posso dire una cosa però. Io mi ero portato dei vestiti chiaramente per vestirmi da Mel Silly, però alla fine purtroppo sono la batteria prima e non ho fatto in tempo a cambiarmi, quindi però è utile saperlo che non lo può vedere. Il radio dice radio. Sì, è vero, hai ragione. Però io ricordo un toppino con panzetta in quello era il suo, quello era vestito proprio così. Ah, era così, ok, scusami. Scusa. Cioè, va bene. Non avrei mai voluto. Ma in tutto questo il motivo per cui poi cioè, lodiamo Virginia, che ricordiamo è una insegnante di danza oltre che la nostra rappresentante del British, è perché appunto in un pezzo come questo che ce l'ho, già siamo un 5, dobbiamo fare un coro a 5, no? E infatti pure le Spice sono andate spesso live a fare cori a 5 proprio perché erano brave, sì. Era facile farlo. Virginia, cioè, a un certo punto dici, giustamente ci fece imparare a tutti la coreografia. Mi sembra che, giusto, era una parte che, integrante. Sì, no, che vabbè, comunque va riconosciuto, era una cosa semplice, era una specie di asere, insomma, poco più complicato. Questo della è sminuire Macarena. Il lavoro altrui. Non volevo sminuire, cioè non l'hai fatta tu quella coreografia. Vabbè, sono passati anni. Però ce l'ha imposta, cioè perché io ho detto, Virgi, per un po' prepariamo il canto, vediamo un attimo le cose. Poi negli ultimi giorni, l'ultima settimana, prima del saggio, c'era un occhio spiritato. Cioè ha preso proprio in mano la situazione, cioè aveva i testi, tutto, dirigeva la gente in mano. E se la magnava se sbagliava le cose. Andavano sempre a sinistra, iniziavano sempre da sinistra. Succede. Comunque si accumula tanta tensione e poi però i saggi finiscono anche così. Salutarvi, la musica di insieme vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo anno. Ma non prima di esserci detti l'ultima cosa. C'era non gioia. Vuol dire un cazzo, ma è molto bella. Quanta gioia. Che bello. Ma quanto l'hai messa da bene. Non si sente nessuna delle nostre voci stonate. Sei stato bravissimo. Sempre una buona parola comunque. Perché io ho i video a casa. Non si sente così. non è vero, assolutamente non è stata applicata alcuna post-produzione né in questo file né assolutamente in quello precedente. Posso dire un non capisco? Se lo dice lei. Ecco, io comunque mi hai ricordato con questa battuta famosa di un attore famoso che non ho salutato Iron Man. Cioè, non abbiamo salutato Iron Man, ormai non ce lo caghiamo più, questa è la verità. Ah, perché qui persone orribili. Abbiamo più rubriche che conduttori, abbiamo più conduttori che ascoltatori e non c'è più spazio per Iron Man. Non è vero. Invece mi sa che sto fatto che so già due puntate che non ti salutiamo per un po' mi indica che stai tramontando, cioè che forse non sei più una realtà amata dai bambini, dai più piccoli, che comunque sono gli ascoltatori di 100 Celle Avengers. Non ti rattristare, andiamo avanti parlando di quello che comunque abbiamo già detto più volte, che esistono i Mezzosangue, ma esistono anche i solisti puro sangue, i serpeverde della situazione, rimanendo in metafora. E abbiamo il contributo questa settimana di un'allieva della maestra Locurzio, Manuela, non Emanuela, per distinguere dall'altra allieva sempre della maestra Locurzio. Sì, ma lei è mezzo sangue. Che però è mezzo sangue, esatto. Mm-hmm. Cioè, mentre questa è appunto una solista di quelle. Allora, anzitutto scusate, sigla solisti. Ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è ora. Quello che è giusto, scusate, abbiamo anche più sigle che rubriche. Cioè, siamo pieni di fronzoli e di cose. Sono ma il contenuto bella, poi stringi, il contenuto è quello che è. Dicevamo i solisti puro sangue, abbiamo Manuela che ci ha fatto gli Overphonics e che andiamo a ascoltare sempre se non divento cieco, perché abbiamo un display veramente arcigno. stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E siamo di nuovo su Centocelle Avengers, su Radio Forte. E ma abbiamo Silly. Io volevo parlare con Iron Man, c'è ancora? Sono sempre qui. Allora Iron Man, visto che sei sempre qui e non ti sfruttiamo, volevo farti un po' di domande. Perché sì, volevo partire con la mia nuova rubrica di cui non ho ancora parlato con Maestro Suano, che si chiama Assilli. Assilli. Esatto, cioè rompi le balle. E in questo caso io vorrei rompere le balle proprio a lei. Ti sembra caro. Il caso? Sì, perché le sue sono d'acciaio, quindi sicuramente avrà molta... Sei esatto. Un sessista. Ma no, non era quello il senso. Semplicemente tu potrai rispondere a due domande senza arrabbiarti, no? Prima non mi cacate, adesso addirittura intervista. Grazie. No, ma mi piace questa cosa che ti offendi. Vabbè, io ho dei sentimenti. Va bene, ho capito, questa cosa me la preparerò per la prossima volta, farò delle domande, verrò preparato e magari registreremo qualcosa insieme, va bene Iron Man? Quando vuoi ti aspetto. Ma sempre qui radio? Sempre qui, io vivo qui ormai. Allora ci vediamo domani sera, perfetto, dai. Allora vedi, domani sera vedo a te, la prossima settimana c'è l'appuntamento col primo gruppo e vabbè, però non anticipo nulla, ci vediamo prossima settimana, ciao Iron Man. Alla prossima. Bene, dopo questo teaser, lo possiamo chiamare così, il teaser di Assilli, la nuova rubrica che prenderà il volo presto su Radio Forte, Centocelle e Avengers. Volevo specificare che Assilli si scrive con la Y finale. Assolutamente, okay, in radio è importante. Grazie. Io non sono d'accordo, però va bene. A proposito di come si scrive, non abbiamo specificato oggi che abbiamo sempre un meraviglioso canale Telegram che si chiama... Centocelle Avengers. Radio Forte Centocelle Avengers. Scriveteci. Scriveteci, mandateci i vostri impressioni. Mandateci vocali. Mandateci dei feedbacks. Nel frattempo abbiamo concluso comunque il discorso solisti, ci diamo appuntamento alla prossima volta, al prossimo allievo che porterà il proprio prodotto post prodotto. E andiamo a parlare di un assente, diciamo, perché comunque cioè, non abbiamo sottolineato, nessuno l'ha detto, ma forse perché volevate essere, diciamo, dedicati da questo punto di vista, però non c'è l'avvocato, non c'è quel qualcuno che comunque aggiunge un... E allora non ho capito perché non abbiamo messo pezzi. Abbiamo messo pezzi senza problemi di copyright, visto che possiamo non c'era. Possiamo infrangere le regole, visto che non c'era. Allora, sì, diciamo che c'è, ma non c'è. Sì, è assente, ma ci sente. Potrebbe anche intervenire e chiamarci tipo come fece Berlusconi con Santoro, cioè, quindi siamo sempre sul allerta. Pezzo. Cioè, ah, comunque, quindi bisogna capire che cioè, la voce di Gabri, perché stiamo parlando di Gabri, del nostro nuovo acquisto, è nota su Radio Forte, la gente la associa all'informazione, alla verità, perché appunto è una delle conduttrici del radiogiornale ogni venerdì su Radio Forte, quindi cioè, fondamentalmente non accettava di stare nel nostro contesto se non, diciamo, con un suo carico di serietà, cultura che ci vuole comunque dare col suo interesse per il diritto d'autore. Certo, professionalità. Quindi anche lei in un certo senso ha aperto una rubrica, lo vogliamo dire, si chiama I cigni di Balacà. L'altra volta ce l'ha raccontato e solo stamattina però appunto per un motivo di lavoro mi dice questa cosa, che non ci sarà e che probabilmente insomma ci dovremmo arrangiare, e mi lascia un po' così. Solo col suo dolore. Per dire che comunque l'ho presa un po', cioè, ho dovuto digerire la notizia, ecco. Quindi oggi purtroppo bambini, come vi ho detto, I cigni di Balacà non andrà in onda. però bambini, come del resto anche la maestra Viola fece la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, l'avvocato ci ha mandato un post prodotto. È bello che comunque soprattutto i bambini si interessino al diritto d'autore, perché cioè legalité. Non ci pensa nessuno, stiamo sempre a parlare delle solite cose Morandi, cose. Allora, questa è una rubrica nuova che approfondisce, che ha una sigla e che ha poi un suo contributo in differita che ascolteremo. Intanto Cigni di Balacà, sigla. Ma papà! Papà, guarda! You were my friend. Ma papà! Hai scritto nel vento. Ma papà! Ma non lo senti? Che è uguale ai cigni del Balacà! Grazie per avermi passato la parola. Siamo in diretta qui dagli studioli di Radio Forte e queste 100 celle Avengers. Mi piace pensare che questo sia una diretta. E allora, la puntata di oggi riguarda il caso Zingara. Come noto agli appassionati di musica leggera italiana, Zingara è una canzone creata dagli autori Luigi Albertelli, autore del testo, ed Enrico Riccardi, autore della musica, e che ha raggiunto la grande popolarità e l'apice del successo con l'interpretazione di Iva Zanicchi e Bobby Solo, che valse loro la vittoria dell'edizione del Festival di Sanremo del 1969. Pensate, il famosissimo incipit della canzone Zingara: prendi questa mano, Zingara, e dimmi pure che destino avrò, è stato infatti oggetto di un caso di plagio presunto tra i più agguerriti e lunghi della storia musicale, pensate, della storia musicale giudiziaria italiana. Dal 1996 fino al 2015, quindi è durato per ben 20 anni, e è approdato in Cassazione, quindi conclusosi anche recentemente. Senza tediarvi troppo su tecnicismi e definizioni giuridiche, è necessario però dare una piccolissima definizione di plagio, che non è altro che l'abusiva riproduzione o diffusione al pubblico di brani o frammenti di brani, anche solo nella loro parte letteraria, oltre che nella parte musicali, che vengono appunto riprodotti illecitamente, usurpando quindi la paternità di un'opera altrui. Non esistono regole precise per identificare il plagio di una composizione musicale, questo è sempre bene ricordarlo, ma è necessario valutare caso per caso. Infatti, formule quali per esempio "se 8 battute di 2 brani sono identiche, allora si verifica un'ipotesi di plagio" non sono valide, in quanto gli elementi che compongono una canzone sono molteplici. Certamente la componente più importante e che può far riconoscere in un brano musicale la creatività altrui è la linea melodica, ma come sappiamo la composizione musicale è formata anche dal ritmo, dal timbro e da accordi armonici, per cui anche questi intervengono al fine di far riconoscere il plagio. E nell'ambito della musica leggera, tuttavia, e così si esprime anche la giurisprudenza, l'elemento determinante da considerare nella valutazione del plagio è soprattutto la melodia, perché contiene in sé il cuore creativo e individualizzante dell'opera, che è più facilmente riconoscibile all'orecchio dell'ascoltatore medio e capace di suscitare sentimenti ed emozioni. Possiamo quindi dire che la musica leggera, ahimè, è un contesto di scarsa originalità, nell'ambito del quale l'accertamento del plagio deve essere quindi particolarmente rigoroso e non deve guardarsi tanto al numero delle battute simili o identiche quanto al risultato della loro combinazione in relazione alle caratteristiche generali dell'opera, cito testualmente, tenuto conto anche del fatto che gli artisti di canzonette, come spesso vengono definite dalla giurisprudenza, frequentemente si riallacciano a temi e motivi ricorrenti, che sono propri del gusto, della sensibilità del tempo e che si trovano, per così dire, nell'aria. Tornando al caso che ci riguarda, dopo questa breve premessa, entriamo quindi nel vivo del caso Zingara. Successe quindi che nel 1996 De Gregori uscì con l'album Prendere o Lasciare, che conteneva in sé un brano, il primo brano dell'album, dal titolo Prendi questa mano, Zingara. È evidente quindi il richiamo e l'assonanza al brano del 1969 con cui appunto Iva Zanicchi e Bobby Solo avevano vinto il Festival di Sanremo. Quindi se in un primo momento, in primo grado, il tribunale aveva accertato che si trattasse di plagio e aveva quindi obbligato De Gregori a ritirare dal commercio i supporti fonografici, CD e musicassette contenenti il pezzo, nel giro di 5 anni la Corte d'Appello e successivamente anche la Cassazione invertirono la decisione, ribaltavano quindi la pronuncia del giudice di primo grado escludendo il plagio, perché sebbene i primi 2 versi della canzone di De Gregori fossero quasi identici a quella della canzone creata negli anni 60 da Albertelli e Riccardi, il resto del testo e la parte musicale erano del tutto diversi, trattandosi semmai di una citazione per la quale avrebbe dovuto trovare applicazione un'altra disciplina. La domanda, quindi il quesito che la Cassazione si trovò a risolvere era il seguente: se la riproduzione di un celebre, originale e compiuto frammento del testo letterario di un'opera musicale debba essere o meno considerata plagio, sia pure soltanto parziale, anche in considerazione del particolare risalto che tale riproduzione ha avuto nell'opera musicale plagiaria. E quindi la Cassazione che fece? Escluse il plagio sulla base di 4, rispose quindi a questo quesito ed escluse il plagio sulla base di 4 ragionamenti, 4 motivazioni principali. Anzitutto la modesta variazione data ad una parte del testo riprodotto. Ricordiamo infatti che nel brano di De Gregori si parla di Zingara che predice il destino del viandante, del viaggiatore, e non invece il futuro, parola invece cara a Iva Zanicchi e Bobbisolo. Altro punto riguardava la trattazione di tematiche completamente diverse da parte della nuova opera, oltre che naturalmente la totale diversità della parte musicale. Ma per quanto riguarda la trattazione di tematiche completamente diverse, la canzone del 69 era infatti una canzone intimista e d'amore. Parla del mio amore, dimmi se ricambia parte del mio amore, dimmi che mi ama, dammi la speranza, eccetera. Mentre la canzone di De Gregori del 96 riguardava il desiderio di conoscere la sorte della condizione umana in genere. In questo emblematici sono i versi come dimmi ancora quanta vita ci va, di quanti anni sarà fatto il tempo, raccontami il buio com'è, la notte è lunga da attraversare. In conclusione, i versi oggetti di causa hanno assunto nella canzone di De Gregori un nuovo significato rispetto a quello avuto nella canzone Zingara, tale da veicolare un messaggio del tutto diverso e così da escludere il plagio del frammento di testo creato nel 96 da Albertelli e Riccardi. E quindi nel nostro caso di oggi the winner is Francesco De Gregori. Oh regà, ma è finita. Grazie, finita, grazie, veramente grazie avvocato. Se posso spendere un confronto tra due belle canzoni. Se posso spendere 2 parole, lei avvocato ci ha fatto 2 precisazioni importanti che comunque ci lasciano ricchi dentro. Spero appunto che torneremo presto con altri casi. Questo comunque, se posso permettermi, non è tanto un plagio ma era più un omaggio. Parleremo anche di questo in futuro. Ma adesso riprendiamoci da questo momento culturale. Bambini, adesso veramente è per voi, ma non subito, non subito. Sta per arrivare la maestra Viola con la sua rubrica letteraria dedicata finalmente ai più piccini. Ma prima mettiamo un pezzo che più o meno ricalca la questione del dettato. We'll be right back. Ed ora. Ci siamo? Ed ora la rubrica Music and Poetry con la maestra Viola, me medesima. Eccoci. Sigla. Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia. Vorrei. E non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Ed eccoci, e per la rubrica di oggi, appunto, Music and Poetry, non potevamo non deludere i bambini, finalmente una poesia per loro, e non potevo non scegliere lui. Quindi, che bello! Buoni. Non potevo non scegliere che lui, il maestro con la M maiuscola, cioè Gianni Rodari, e... Ho detto buoni. Contentissimi, che oltre maestro anche, ricordiamolo, un partigiano della nostra Repubblica. E questa poesia è intitolata Sulla Luna e diciamo Gianni Rodari ci dice un po', no, quali sono i professionisti che potrebbero andare a sbarcare sulla Luna, sul nostro satellite del cuore, e invece chi farebbe meglio a rimanere sulla Terra, dov'è, con i piedi per terra. Sulla Luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, riempirebbe di scartoffie e lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla Luna dal lunare, con la testa nella Luna lui da un pezzo ci sa stare, a sognare i più bisogni e da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Orché i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla Luna e sulla Terra fate largo ai sognatori! Ma come va? È bello Gianni Rodari! Bellissima questa poesia! Comunque, se ti dovessi trovare mai in difficoltà a livello di ispirazione, noi, cioè Iron Man ha fatto, sì, una ricerca per te. Oh, grazie Iron Man. Sulla felicità, interpretata... No. No. Cioè, no, questo solo se dall'amico di Betta. No, solo se dovesse servire, non volevamo assolutamente inquinare. Ah, però okay. Cioè, ci sono perle. Ci serve, ci serve. Io aiuta. Voglio sapere. Vuoi sapere tu? Sei curiosa? Non lo so, a volte uno non se ne accorge, ma. Il profumo del caffè al mattino è un piccolo rituale di felicità. Cioè, ci avete mai pensato, per esempio? Cioè, no, mi ha aperto un po' il mondo. Sapevatelo. Un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il profumo della primavera ti sveglia dall'inverno. Cioè. No? Tutto vero. A me mi fa molto questa... Cioè pensaci Viola, io non, sì, non, ci penserò, non volevo assolutamente, certo. Soprattutto Iron Man non voleva, però... grazie lui ci ha lavorato tutta la notte, soprattutto sul finale. No, vai. Nonostante le tue difese, nonostante il tuo volere, il tuo destino, in ogni gabbiano che vola... C'è nel cuore un piccolo grande Jonathan Livingston. Cioè, non riesco a sentirne con ogni volta. Sì, giuro, cioè, ragazzi, veramente. Mi si sono appena cariati i denti. Il libro più corto che sia mai esistito, quello che leggevi quando non avevi letto. Detto la ciò, biblioteca, la rubrica letteraria va a gonfie vele. Per la prossima volta abbiamo detto che facciamo sia bambini che adulti. Proviamoci, a un certo, sì, punto vietato ai minori. Vietato ai minori, ok. Poesie di un certo spessore. Va benissimo. Ma a questo punto io andrei a sentire qualcos'altro di queste proposte che mi arrivano dalla redazione, di cui io non mi accollo nessuna responsabilità. E quindi, e soprattutto non le trovo. A voglia, quale colore a voglia. Sarà? C'è una che si chiama Silly CC, perché è Creative Commons, capisci? Cioè, senta, io non dico niente. È sottinteso di un albero, cresce alto fino alle pendici del paradiso, più dentro il nero della terra spinge le radici. Le colpe sono nidi scomodi da cui le virtù spiccano il volo. Perso il perdono tra nomi nomadi, perché anche le colpe hanno un ruolo, quello di offrire un contraltare per predicare male ed invece razzolare bene. Se vedi l'erba del vicino puoi arrivare fino ad invidiare il giardino dell'Eden. Io misi a frutto nella pratica la lezione che l'arbitrio spiega, che forse tutto non si compra ma sta pur certo che tutto si paga. Muoio da empio ma senza velleità, sono pago d'essermi speso nel darvi esempio che Dio solo sa quanto è inutile il frutto appeso. Perfino il sole ha le sue macchie, maturo come Adamo, deve cadere giù dal ramo. Alto fino alle pendici del paradiso, più dentro il nero della terra spinge le radici. E bentornati su Radio Forte, 100 celle Avengers. Ma chi erano questi? Cioè, ma tu invece di mettere il pezzo che t'avevo mandato da mettere dell'amici mia, mi hai messo il pezzo mio. Ah, sta a fare prezioso, fammi capire. Cioè, praticamente tu mi hai messo il pezzo mio, questo ero io. Ma quindi avevo ma che te vedo, ogni volta che parli in radio parli con una voce diversa, quindi non ti avevo assolutamente riconosciuto. Perché non voglio neanche che mi riconoscano cantare. Anzi, capisci? Ricordiamo la prima puntata del Pischello. Poi ciao, cresciuto. Sono quello che fa. Esatto, quello, bravo. E quindi chi erano? Come si chiama questo progetto? Ma questo è un progetto morto, maestro. Cioè lei almeno con gli Happy Suono assilliamolo. Con gli Happy Noise ha risonato durante il Covid. Siete fatti il video con i quadratini. Io questi non li sento più, non so più che fanno. Praticamente è un gruppo che ci ho avuto, che è durato 7 anni fino a 5 anni fa, 6 anni fa. Mi sa che è finito quel gruppo quando è iniziato a venire MD, maestro. Stai dicendo che è colpa della scuola di musica? Cioè, ma non ho capito adesso, io devo intervistare Herman, mo Herman mi sta intervista a me. Mi sembra che se stava. Lo sai che è vendicativo. Ah, sì, me ne sono accorto. Comunque va bene, questo è il momento in cui noi diciamo che anche gli assilli riguardano te. E passiamo soprattutto alla rubrica che tutti, ma veramente tutti, stanno aspettando da ore. E che rischia addirittura di zompare, se qua siamo ancora a perderci in chiacchiere. Ma su. Se lei, maestra, mi consente, io vado di sigla. Io consento, assolutamente. Molto bene. Ah, la orecchia. Grazie maestra per essere di nuovo qui. Grazie a voi, grazie a lei soprattutto. Che canzoni hai trovato nella sigla oggi? Nessuna? Ho trovato quello di She Loves You, Yeah e anche Yeah. Ma che bravo! Era giustissimo, esatto. Ci ho preso, che ho vinto. Poi lo diremo. Ma soprattutto anche oggi ci chiediamo, ma come si chiama questa rubrica? Si chiama... Wow, credo di stare per dire che fa schifo, però vabbè, insomma. Fa schifo potrebbe essere comunque, no, vabbè, scusa. ragazzi, se ci mettiamo d'accordo sul fa schifo per la rubrica dei Beatles, io stranamente ci sto. No, quindi pensavo quella cosa dei scarafaggi. It sucks. Il gioco no, di no, parole. No, fa schifo con la sh. Vabbè, comunque. Allora, io volevo prendere al volo l'occasione per parlare di una cosa che ricorre sempre in tutte le puntate, ovvero perché i Beatles hanno smesso di fare live. Mannaggia. Perché non sapevano suonare dal vivo? Ma posso rispondere io? No, infatti, scusa, appunto, il dubbio che avevamo veramente tutti. Proprio. Allora, no. Ci sono due motivazioni che ho trovato personalmente. La prima è, come abbiamo visto in tutte queste, diciamo, queste puntate della rubrica dei Beatles, che da oggi chiameremo fa schifo, che bello. E, diciamo, da quanto abbiamo visto, i Beatles hanno iniziato con gli anni e nel corso del tempo a produrre, diciamo, brani sempre più complessi da rifare live. Ma abbiamo un secondo motivo. E il secondo motivo che io ho trovato è che fondamentalmente erano diventati, o comunque venivano trattati nei loro live, un po' in tutte le situazioni in cui appunto dovevano suonare, un po' da fenomeni da baraccone. Qui abbiamo un esempio dal loro live più importante, che fu il concerto allo Shea Stadium, quando vennero invitati in America. Ora non so precisamente quante decine di migliaia di persone c'erano, ma comunque stavano tutte svenendo e piangendo davanti ai Beatles e davanti alla polizia che le caricava e le portava via. E questo è l'esempio. Like to carry on with a song that was the album before last. And it's called Everybody's Trying to Be My Baby. La chitarra è scordata comunque. Come sempre. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it. Ecco, un estratto per far capire, diciamo, a tutti quanti quanto né il pubblico né gli stessi musicisti ci capissero nulla, né all'inizio, né durante, né alla fine della canzone. La cosa purtroppo non migliorava nemmeno in televisione, dove i presentatori che li ospitavano spesso mettevano su dei siparietti poco edificanti per i Beatles. E abbiamo un altro esempio in cui vengono, diciamo, invitati i Beatles a suonare le proprie canzoni, ma esatto, vengono messi un po' in mezzo. Ma come si permette? Ma è uno scempio. Oltretutto chiamano pure Ringo Bonzo, ma vabbè. Ma addirittura. Giura. È poco rispettoso, lo so, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. E cioè io veramente pure avrei smesso di suonare, cioè, se mi avessero fatto un... Non si vede, ma lo sto guardando male. No, vabbè. Diciamo che secondo me l'ipotesi quella prima, quella che era difficile fare quei pezzi post prodotti live, che è un po', diciamo, il motivo per tutti i musicisti, anche non Beatles, reggeva di più. Però sono d'accordo, però io sto qui rispondendo alle critiche iniziali, subito all'inizio di questa rubrica, in cui i Beatles facevano schifo a suonare a detta di qualcuno. Immotivate, e quindi immotivate sempre. Il prossimo, diciamo, estratto che mi sono permessa di sistemare in qualche modo è un diciamo un ritaglio del concerto che i Beatles fecero a Roma nel 65 al teatro all'epoca Adriano. Il pubblico era chiaramente in visibilio e questa era l'attenzione dedicata a uno degli eventi, diciamo, al più tuo importanti segnale scateno l'inferno. Al mio segnale, il mio segnale è questo. Signori, addirittura incredibile, i Beatles. I Beatles. I Beatles. È sembrato, era pollo. Queste erano le fan. Non c'è rispetto. Ciao. a merda sono. Questo era Paul. And then ciao. Cioè veramente è la prima volta che mi hai portato un contenuto che mi ha catturato veramente, non guarda sapevo te, che... ma allucinante. Questa signora era felice di partecipare al concerto o no? Ma io sarei stata forse felice, insomma. Era una di quelle che aveva vinto il biglietto, che aveva trovato il biglietto, non so se sai questa chicca che mi è venuta in vai mente. Subito, sì, no? Che in quel periodo prima di questo concerto a Roma che ci fu, praticamente i biglietti venivano trovati, o non ricordo se venivano trovati tipo il cuore d'oro, i confetti Crispo, oppure erano già comprensivi nel giornale TV Sorrisi e Canzoni. Sì, sì, sì, infatti sì, conosco delle persone, oddio, non direttamente, però lessi questa cosa dove appunto i fortunati a partecipare al concerto dei Beatles, parecchi così, tutti molti ragazzi che hanno sfruttato al meglio l'occasione, quanto abbiamo avuto. Sì, infatti, anche la signora forse. Esatto. E soprattutto il giuggiolone di cui parlava. Certo. Bene, dopo questi esempi poco edificanti, diciamo, non dobbiamo dimenticare però che proprio alla fine del loro percorso i Beatles conclusero con un evento che oggi tutti ricordiamo e tutti, diciamo, in qualche modo riprendono e cercano di riprendere almeno nel mondo delle proprie idee da musicista, ovvero il live fondamentale della loro storia, cioè il concerto sul tetto. Ben scotta. Sul tetto che non scotta, ma non lo so perché comunque faceva freddino. Infatti, c'erano tutti, erano tutti vestiti con i cappotti delle proprie signore in quel momento. Vabbè, mi è scappata la minchiata. Eh sì, vabbè. Succede. Stiamo parlando dei Beatles, insomma, cioè, chi ne sa. E dicevo, il concerto ben fatto, tant'è che comunque noi abbiamo anche oggi gli esempi, appunto, delle canzoni che sentiamo e che sono riprese da lì. E che però fu interrotto dalla polizia. Quindi adesso un estratto dal famoso concerto sul tetto con uno dei pezzi più famosi. La polizia dice a merda. No, no, no, quello è venuto un po' dopo. Okay. O comunque forse è arrivato e stava guardando. Forse era questo il momento. Diciamo, get Sona. Back. Get back. Sona. Sweet Loretta Fat. She thought she was a cleaner. But she was a fry. The picker. Picture the fingers, Greg. Okay. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Philip. Stai ascoltando Radio Forte 100 Rangers. E siamo verso la fine di questa incredibile terza puntata in diretta, 18ª puntata di 100 Celle Avengers. Siete felici? Siete almeno un... Quantomeno siamo maggiorenni. Siamo maggiorenni, sì, quello senza ombra di dubbio, ma soprattutto vi posso dire questa cosa. Ma la gioia di noi giovani è anche sapere che fra una settimana sarà ancora sabato e noi potremo stare fuori fino a tardi, tipo fino a mezzanotte e mezza. Incredibile. Ora sabato e poi domenica, i giorni in settimana sono 6, poi siamo 5, poi sono 7 e 5 più 7. Quanto fa? Quanto fa? 12. Niente, io volevo arricchire un pochino e ricordarci a tutti quanti questa atmosfera di rinnovato Goliardia. Coprifuoco, sì. Allungato di mezz'ora che ci stiamo Diretta. Vivendo. Sì. Cioè, comunque smontare dalla musica d'insieme, per esempio, non è più quella fretta, quella prescia che ci faceva lasciare tutto collegato a cazzo di cane. E, quindi io dal punto di vista della scuola di musica, della didattica, voglio dire meno male, perché sennò questo saggio lo facciamo veramente alle 5. Di prescia. Alle 5 o alle 3 addirittura. Le performance saranno sicuramente migliori con diciamo questa tranquillità, no, di orario. Ah, io volevo solo sapere se eravamo più o meno di 100. Non lo so, appunto. Se... Questi sono quelli. Scusate, loro sono soltanto quelli della prima parte. Poi ci stanno i solisti, come abbiamo già detto, i Mezzosangue e la musica d'insieme nelle sue quattro formazioni che ormai conosciamo tutti: Sumeri, Fenici, Assiri, Babilonesi. I solisti divisi un po' nella tecnica ateniese della maestra Serena, che aveva composto delle band d'occasione per accompagnare, e invece il metodo spartano del maestro Stefano, che li accompagnerà tutti al pianoforte, così che l'esibizione del solista Puro Sangue non sia inficiata dagli errori di altri. Scusate, mi sono un po' scaldato, comunque il saggio un po' me mette l'ansia. Tranquillo, ve lo dico. Maestro, tranquillo, ci siamo noi qui. Grazie. Era minaccioso, serve tanto questo. Tanto a farfonico sta da solo. Con me c'è Iron Man, che sta già montando i tubi innocenti e occupandosi del settore luci. Va bene. Tutto bene. Che canzone che ha citato, maestro? Io con questo vorrei ricordare a voi tutti quanti che la puntata che è andata in onda è presente, sarà presente entro pochi minuti in podcast sul sito del Forte, fortepenestino.net, che noi ci risentiamo fra 15 giorni, forse cambiamo giorno, mi sa di sì, però butto lì così poco prima della sigla, senza dire quando, quindi rimaniamo per giovedì, poi casomai sul canale Telegram che tutti hanno. Tutti certo. Iscritti, e gli arriva la notifica: guarda, 100 Celle Avengers in diretta si è spostato. Nel frattempo, ciao amici. Ciao.